365 giorni, 365 storie da raccontare. Quelle di un meraviglioso territorio che dopo decenni di silenzio ha rialzato la testa, proprio come oggi, un anno fa. Un anno di lotta, di rivendicazione popolare, di autodeterminazione. Un anno che ha dato fiato e voce a chi questo territorio lo vive in prima persona ogni santo giorno e ogni santo giorno sente sulla propria pelle le cicatrici inferte da una mala politica che ha fatto dalla Presila la discarica della Calabria. Uomini e donne che si sono opposti e si oppongono all'umiliazione, alla subordinazione politica, che fanno del riscatto sociale la propria bandiera. 365 giorni di passione, di coraggio, di amore da parte di una terra che subisce le angherie, i soprusi, le beffe, i raggiri, la violenza e l'inganno della politica istituzionale dell''ndrangheta. L'affarismo che viene messo al di sopra del bene collettivo, il profitto conseguito distruggendo l'ambiente e la vita delle persone, il raggiro e le false promesse di personaggi succubi, di interessi altri. Il 16 febbraio del 2014 le donne e gli uomini liberi della Presila hanno detto basta a tutto questo, con un gesto meraviglioso di coscienza e di consapevolezza, fermando, anche se per poco, la brutalità e l'arroganza di una classe politica inadeguata, collusa, vergognosa. A un anno esatto da quel 16 febbraio, quell'anelito di libertà, quel soffio sincero di volontà collettiva, vivono ancora. Ed il segno, la traccia, le orme di quei primi passi compiuti all'ombra di quel ponte di cemento acelico sopravvivono ancora oggi nei sorrisi, negli occhi e nella gola di chi è ancora qui, di chi non si arrende, di chi non si rassegna, di chi vuole ancora questa terra libera dal malaffare, di chi vuole un futuro sano per i propri figli, di chi ancora oggi è qui a difendere la propria dignità, di chi non si fermerà finché ad andarsene non saranno loro, con la loro discarica, i loro rifiuti. Benvenuti, benvenuti a questa puntata speciale. Oggi niente sigla, solo monologo, musica e tanta felicità. Oggi è il 16 febbraio, una data molto importante. La rubrica consueta del giorno la dedicheremo proprio a questo giorno speciale che è il nostro giorno, il giorno del Comitato Ambientale Presilano. Un anno fa esattamente, il 16 febbraio, il Comitato Ambientale Presilano con i cittadini della Presila bloccavano la discarica, bloccavano l'accesso dei camion alla discarica di Celico, incontrata San Nicola, e davano avvio al presidio, un presidio di libertà, un'esperienza di lotta, una storia tutta presilana fatta di 365 giorni di cuore, di passione, di sangue di questa terra meravigliosa. Con noi in studio Scarafaggi, molto felici oggi, li vediamo anche se sempre incazzati, Andrea, Valentina, Alfredo, il grande Alfredo, giornalista dell'Ambasciata, un esempio, come dicevamo anche nella passata puntata, di giornalismo indipendente d'assalto. Quindi benvenuto ad Alfredo, la prima puntata con noi, e Italo, come al solito, siamo qui. Grazie, allora. Mille, grazie mille dell'invito. Cordiale saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Ciro. Benvenuto, benvenuto. Allora Italo, come cominciamo questa puntata molto particolare? Un anno fa eravamo lì, sotto quel ponte di Celico, migliaia di persone che si sono riunite dopo il nostro appello, dopo l'appello che abbiamo lanciato contro l'ennesimo scempio e l'ennesimo abuso perpetrato dalla Regione Calabria. Diciamo che è stato tutto improvvisato all'apparenza, perché comunque dietro c'è stato un lavoro di anni di assemblee in 4, 5, 6 persone. Non ricordiamo bene. Di discussione, di cercare carte, di fare richieste di accesso agli atti, carte negate, carte trovate grazie all'aiuto anche di qualche politico che si è messo a disposizione. Quello che dovrebbero fare tutti. Ricordiamolo, perché è giusto ricordarlo, Mimmo Talarico, perché se lo merita, perché ha fatto la sua parte. Nella scorsa, come dire, amministrazione regionale era in commissione ambiente. Sì. Se non sbaglio di minoranza, lui faceva parte della minoranza, non ricordo. Sì, non, sì, non, vabbè, sì. Non è importante comunque. Di carte comunque nascoste, di carte comunque poi finalmente trovate, di conferenze dei servizi, di affermazioni strane, di firme strane. Di revoche, poi di ricorsi al TAR. La storia della discarica di Celico è costellata da cose molto, veramente molto strane. Sì, poi questo comitato fondamentalmente è nato dall'unione di un vecchio comitato di un intero cittadino solo di Rovito, insieme ad altre forze presenti sul territorio, e tutti i ragazzi poi provenienti da ogni parte della Presila, da San Pietro fino a Serra Pedace. Come siamo arrivati a quella notte tra il 16 e il 17 febbraio? Siamo arrivati lì dopo aver fatto una serie di iniziative e di assemblee con il comitato, molto partecipate, e siamo arrivati lì dopo aver fatto due iniziative molto importanti, forse mai successe in Presila, mai state in Presila iniziative del genere, ovvero un consiglio comunale aperto congiunto di tutti i comuni della Presila presso il teatro comunale di Rovito, e poi un altro convocato dalla stessa amministrazione di Celico, che ricordiamo che è la stessa che ha voluto la discarica, che ha attaccato i manifesti contro la discarica. Si è attaccato i manifesti contro da sola, in realtà. Sì, diciamo, fondamentalmente. Anche sì. Perché poi con le carte che abbiamo avuto modo di visionare abbiamo visto come i principali firmatari di questo scempio furono proprio gli amministratori di Celico, che tra l'altro erano il 16 febbraio dell'anno scorso in giunta. Assolutamente. Ci ricordiamo bene. Assolutamente sì. Insomma, comunque, ricordiamo che successe in quei giorni. Oltre alle ordinanze contingibili e urgenti che permettevano lo sversamento del tal quale, entrò in vigore l'emendamento Orso Marzo. Emendamento Orso Marzo che prevedeva appunto l'utilizzo della discarica di Celico come discarica facente parte del ciclo regionale dei rifiuti, nonostante non ne facesse parte, quindi in deroga sia al fatto che non avesse l'autorizzazione integrata ambientale, sia al fatto che fosse una discarica privata e non poteva accogliere i rifiuti prodotti delle amministrazioni pubbliche. E questo, diciamo, che ha fatto un po' inviperire buona parte della popolazione, anche con la nostra spinta, diciamo, ma anche con la spinta del partito d'opposizione all'allora maggioranza regionale. Comunque ha dato un contributo notevole sia, certo, in termini di discussioni che in termini pratici, che però quest'anno è venuto a tradirsi, nel senso che in soli 3 mesi dall'insediamento hanno rinnovato l'emendamento Orso Marzo su proposta di 3 neoconsiglieri di maggioranza, se non ricordo male Sebbi Romeo, Franco Sergio e l'altro non me lo ricordo mai. Che cazzo è? Ovviamente tutto votato all'unanimità, sempre gli stessi personaggi che l'anno scorso tra cui Guccione, che l'anno scorso fece una denuncia in procura di incostituzionalità dell'emendamento il 6 marzo, quest'anno forse perché stanno per cambiare la Costituzione non è più incostituzionale. Evidentemente 43 articoli mi sembra che cambieranno. Non ricordo però. Una bella riforma. Una fase costituente in una notte. Comunque questi sono altri discorsi, lasciamo stare perché sì, entreremmo in una spirale molto particolare. Insomma, ricordiamo i giorni precedenti a quella notte, che sono stati veramente come dire tumultuosi e di grande pathos. Ogni sera c'era un'assemblea, ogni sera c'era un'iniziativa. Sì, ricordo in particolare, scusa che ti interrompo, un'assemblea, diciamo, collettiva, così, diciamo, vari personaggi, varie personalità, in cui fu deciso proprio il blocco. Mi ricordo proprio quella sera nella sede di un'associazione di Rovito, dove fu deciso il blocco, dove all'unanimità la cosa veramente bella, particolare, fu che la proposta sorse così, quasi spontaneamente. Non ci fu nessun capetto che dall'alto impostò la linea di quella riunione. La decisione fu presa così e la gente rispose in maniera molto molto forte, perché il 16 a notte sotto il ponte di Celico le persone erano veramente tante. Io ricordo i video, ricordo le parole, anche lo stupore nostro, anche lo stupore, nessuno fondamentalmente ci credeva, solo aspettava. Quindi è stata veramente, si è dato lì avvio ad una stagione nuova per la Presila. Erano anni che il nostro territorio, anzi decenni, che il nostro territorio, forse dall'occupazione delle terre degli anni 50, che il nostro territorio non si ribellava in una maniera così evidente, così forte. Quindi sicuramente è stato un momento molto molto importante per il popolo presilano. Diciamo che quella notte ha dato il carburante per stare lì quasi un mese intero, al freddo, al gelo, all'addiaccio, contro tutto e tutti, contro le forze dell'ordine, contro le istituzioni, contro i camion, contro la spazzatura, insomma una guerra. Contro gli operai di Ecologia Oggi che ci volevano picchiare, contro il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, insomma. Abbiamo avuto talmente tante persone contro che sarebbe troppo lungo ricordarli tutti. Alfredo, tu ti volevo fare una domanda. Come l'hai vissuta quell'avvio di quel presidio? Cosa ti ricordi? L'ho vissuta con grande freddo, innanzitutto ricordo questo. Il freddo di quelle notti e anche il calore umano che non avevo, che mi porterò sempre. Delle persone, dei timori e delle paure che avevate anche voi e che avevano tutti coloro che si trovavano per la prima volta in un'esperienza del genere. Esatto. Questo, ho detto, non arrivava da chissà quale spinta, sì, antagonista, no, era la gente che si ribellava, un grosso movimento popolare che è giusto ricordare perché rappresenta, sì, per il popolo presilano, per il cosentino, forse un unicum, sì, forse ricordavi tu il movimento contro l'esproprio delle terre, ma nelle nuove stagioni, soprattutto negli anni 2000, non si ricordava una cosa del genere. E lo ricordo anche dal mio punto di vista come un'esperienza molto particolare di giornalismo. Faccio un esempio, avete fatto bene a ricordare che ci si è arrivati nei mesi, noi già avevamo cominciato a raccontare le assemblee di dicembre, quelle pubbliche. Non ricordo che ci fossero testate a quel consiglio comunale aperto, mentre un consiglio comunale aperto che riguarda quindi circa 30.000 abitanti è notiziabile di per sé, quindi già questo ci dice tanto su come alcuni territori non sono raccontati dai nostri media locali. Quelle notti in particolare, le notti, diciamo, dell'arrivo poi in massa delle forze dell'ordine, le ricordo molto perché, tra l'altro, pioveva tantissimo la mattina dell'arrivo del primo esercito. Sì, ricordiamo il telone. Sì, quel telone stracolmo che era pieno d'acqua e rischiava di affogare le persone. Assolutamente. Sì, allora, io ricordo benissimo questa cosa, che noi avevamo comunque, ci eravamo organizzati in un modo che si potesse essere sul territorio quando i fatti sarebbero accaduti, quindi dalla mattina presto, mi ricordo alle 6 eravamo già lì, muniti di telecamere e tutto, a raccontare quasi in presa diretta, perché avevamo messo anche un'ottima antenna, un ottimo ripetitore. Sì, ricordiamo, infatti Abbiamo messo in presa. Tra poco ricorderemo anche i contributi. Sì, sì. Abbiamo messo in presa diretta quello che accadeva, cioè forze dell'ordine che sono arrivate senza casco e si sono mosse contro le persone che erano sedute a terra. E il video parla chiaro, ancora lo possiamo trovare su YouTube, sullo speciale di Masciata.it, speciale Celico. Migliaia, decine di migliaia di persone hanno visto in presa diretta quello che accadeva, mentre ed è accaduto in buona sostanza questo, se non vado errato. Si è deciso insieme alle forze dell'ordine di non procedere ad uno sgombero forzato, ma di trovare un accordo per poter verificare i profili legali dello sversamento dei rifiuti e fare una visita nella discarica, entrò qualcuno di voi anche. Sì, sì, fu la prima volta che qualcuno riusciva a entrare nella discarica. Quindi questo è quello che è successo in buona sostanza. Forse l'ordine non sono passate, hanno provato due volte, dopodiché hanno trovato un accordo con i manifestanti e quel giorno, se non sbaglio, si fermarono 15 camion che erano pieni di percolato, sono tornati indietro. Invece l'indomani cosa titolavano i giornali? Giornali che non c'erano sul posto. Titolarono sgomberato il presidio di Celico. Quindi questo è l'esempio. Una notizia falsa. Perché non erano sul posto? Colpa mia. Italo ha fatto cadere il telefono o qualcosa. Non fa niente. Cioè, c'era qualche fotografo che è arrivato uno o due ore dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, qualche fotografo dei giornali locali, ma nessun giornale locale, nessuna TV locale, nessuna radio locale, all'infuori di noi che abbiamo messo insomma il video in presa diretta. Quindi i cittadini potevano vedere quello che era successo davvero e leggere invece una cosa che non era successa. Questo per me è una cifra di importante di come funziona di quei l'informazione. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. È così. E Italo, proprio riprendendo quello che stava dicendo Alfredo poco fa, sui contributi che avemmo nei primi giorni, subito dopo l'istituzione, diciamo, del presidio. Ricordiamo che poi quella piazza fu soprannominata Piazza della Libertà. Ricordiamo appunto le persone che sono accorse anche da Cosenza, da fuori, dall'università. In particolare parlavamo appunto dell'antenna internet per poter trasmettere in streaming in diretta quello che stava succedendo. Sì, noi avevamo una DSL ad altissima velocità in piena montagna, fondamentalmente, che neanche nelle nostre case c'è. Gratis. Infatti sì, eravamo molto tecnologici, avevamo gazebo, ci hanno fornito dei gazebo le varie associazioni, sì. I ragazzi della Proloco di Serra Pedace ci hanno fornito un bel gazebo di legno con cui facevano la festa della castagna, poi l'hanno rivoluto, vabbè, diciamo che è giusto così. Stendiamo un velo su, ricordiamo cose. I ragazzi di Cosenza, la Fucina Anarchica, il Rialzo, il Prendo Casa, il Comitato di Donnici, Don Tommaso, Paolo, Maria, insomma contributi fondamentali sia in termini teorici e che poi in io vorrei ricordare tutte lo le sparro sì tutte le persone che ci portavano da mangiare, sì, vabbè. Perché era un via vai con, cioè, io sono ingrassato in quel periodo perché arrivava pasta asciutta, carne, di tutto di più, vino c'è Oreste che è appena arrivato che ci fa gestacci come al solito, sempre si deve distinguere, tu oggi non parli Vabbè, ricordiamo insomma come per la prima volta forse in Presila si è visto qualcosa di univoco, di unito. Abbiamo parlato fino adesso con Alfredo, comunque un esperimento di giornalismo indipendente, fondamentale, messo a disposizione completa di un territorio di cui lo stesso Alfredo fa parte, una Presila che mai aveva avuto un'unità di intenti del genere, che poi nel tempo è stata sfaldata, non si sa bene per quale motivo. Non vogliamo essere cattivi. Diciamo che ci sono stati degli errori da parte di qualcuno, compresi qui presenti, delle scelte politiche ben precise. Diciamo che poi, insomma, l'abbiamo visto in consiglio. Come abbiamo regionale. Detto prima, nessuno di noi aveva avuto mai un'esperienza del genere, quindi a volte l'inesperienza fa parte anche del gioco e ci sta tutta, compresa quella. La giornata del 21 che ricordava prima Alfredo, la prima volta che è arrivato l'esercito a sgomberare circa 400 persone messe lì di traverso per non far passare i camion, donne, bambini, anziane, ricordiamo, di ogni età, e non erano i black block come si era sparsa la voce che c'erano questi cazzo di black block. Oreste era stato scambiato per un black, quindi immaginatevi... I Sila Block. I Sila Block. Sì, okay. Sì. I Backstreet Boys. Vabbè. Infatti, comunque, se permetti, Francesco, è molto interessante adesso che mi ci fate pensare questa seconda parte, anche perché siamo in una radio indipendente, importante, che ha fatto 25 anni pochi giorni fa, e ancora rinnoviamo gli auguri, questa grossa opportunità che ha la città di Cosenza, grazie a Radio Giroma. E mi ricordo di quando Peppi Impastato occupò Radio Out, dicendo sostanzialmente che cosa? Che la verità bisogna dirla principalmente sui propri limiti, altrimenti non è verità. Ed è interessante capire anche da un punto di vista sociologico, penso per esempio alla sociologia dei movimenti collettivi, come si è trasformato un anno dopo quell'esperienza, che partì, facciamo degli esempi rozzi, partì secondo me con delle similitudini al Popolo della Terra dei Fuochi, poi si trasformò con delle grosse similitudini con il territorio dei Notabili invece. Suona un telefono. Bellissimo, il bello della diretta. Il bello della diretta. Sì. Insomma, e quindi sostanzialmente cosa dice la sociologia dei movimenti collettivi? Che un movimento collettivo si può battere in due modi, isolandolo o istituzionalizzandolo. Esatto. Probabilmente è successo il secondo al movimento del Comitato Presiliano Ambientale, al movimento No Discarica di Gelico. Volevo stimolarvi su questo, che ne pensate? Guarda, diciamo che ci furono sicuramente entrambe i tentativi. L'istituzionalizzazione del movimento era nell'ordine delle cose, perché parte importante di quel movimento faceva parte già di un partito istituzionale. Sì, infatti ricordiamo che è un contributo fondamentale all'inizio della battaglia, diciamo fino a quando siamo stati lì sopra, è stato data dai Giovani Democratici, esatto, dell'intera Presila. Che ringraziamo sempre e ringrazieremo sempre per quello che hanno fatto. Quindi comunque c'era già una parte istituzionale abbastanza impegnata, che per quanto fosse distante dalla posizione dei cosiddetti grandi, quelli che avevano avuto loro stessi la discarica, perché le carte, ricordiamo, parlano chiaro, però comunque si sono posti e messi in una posizione in cui erano aspramente critici sia nei termini che nei modi verso questi personaggi. Ricordiamo anche il primo consiglio comunale congiunto aperto al Teatro di Rovito, dove il segretario del PD di Rovito parlò di comitatini del cazzo, e i ragazzi furono i primi ad alzare la voce e a cercare di spegnere questo signore, che ricordiamo è uno di quelli che dice che una timpa è sempre una timpa, che nulla può cambiare, che tutto rimane uguale, e che la Presila è destinata a essere quello che è adesso, ma non è così. Se è destinata a essere questo è perché loro hanno fatto questo, ma noi vogliamo altro e continueremo a lottare per avere altro, perché comunque le potenzialità ci sono. Detto questo, comunque... Siamo stati isolati, alcuni ci sono cascati in pieno, alcuni si sono rimessi nei binari classici, hanno deciso di... Io direi più che altro solati, più che altro direi solati. Solati, sì, anche solati. Infatti volevo pure dire questo, sì, il secondo aspetto di cui stavamo parlando, appunto l'isolamento da parte, insomma, della politica istituzionale, e ricordiamo, appunto, proprio rivangando il 21, quel giorno di cui stavamo parlando prima, il ruolo che svolsero i sindaci che erano presenti, perché nell'assemblea precedente e nelle riunioni precedenti a quel giorno i sindaci avevano preso un impegno molto preciso, che era quello di mettersi dalla parte dei cittadini e, qualora fossero arrivate le forze dell'ordine, stare con i cittadini. L'immagine di quella giornata e di quell'accordo, poi, diciamo così, con le forze dell'ordine è proprio questa: i cittadini da una parte e i sindaci che confabulano e che arrivano all'accordo con le forze dell'ordine. Le persone, vedendo quella scena, essendo proprio alla prima esperienza, con la prima volta che si trovavano un reparto della Celeres, minacciate di arresto e minacciate dai sindaci. Esatto, sì, esatto. Dall'ispettore Poirot, ricordiamo il sindaco di Spezzano. Sì, sì, sì. un ispettore dell'ovra, sembrava più che altro. E lo ricordo, ricordiamo bene questa immagine in cui appunto da una parte c'era la popolazione impaurita e dall'altra c'erano i sindaci che arrivavano all'accordo, che cercavano di arrivare all'accordo. Poi riuscimmo nella concitazione del momento e in tutto quello che successe in quei frenetici attimi, riuscimmo a strappare il controllo dei camion, la promessa che fossero sversati i rifiuti solo per 10 giorni e non per tutto il periodo d'emergenza. Sì, questo è un punto molto importante, perché entra in gioco un altro soggetto istituzionale in questa vertenza, che non è una vertenza locale, entra in gioco il governo, perché ci furono riunioni in prefettura e noi sappiamo che la prefettura non è lo Stato, la prefettura è organo del governo. Esatto. Ci fu una promessa fatta ai cittadini, perché io ricordo benissimo che i sindaci che si riunivano in prefettura e firmavano documenti che anche noi abbiamo pubblicato, la sera poi li spiegavano nella sala del comune di Celico, veramente gentile ai cittadini, una cosa che non avevamo mai visto sotto la pioggia. E c'era proprio... addirittura non la promessa, il giuramento che all'undicesimo giorno sarebbero intervenuti i versamenti, invece quella cosa si è prorogata fino a un anno. Quindi sono state tradite le volontà popolari in quelle giornate. Questa è una cosa importante a sottolineare, tradite anche al governo. Esatto, è andata proprio così. Come infatti poi ci furono i successivi blocchi, ricordiamo, sì, dell'8 giusto, del 10 prima, marzo. Prima di mandare il pezzo, ricordiamo perché i sindaci si sono messi, secondo noi o secondo me, poi correggetemi se sbaglio, davanti nella trattativa, perché in quei giorni dove le assemblee erano ultra partecipate, si vedevano 200, 300 persone, 400 persone, ricordiamo l'assemblea del mercoledì notte, dopo che i sindaci erano stati in prefettura, dove noi eravamo sui muretti, sotto c'era la gente, i sindaci erano nella gente, pisciati nelle mutande, e noi potevamo chiedere qualunque cosa. Loro, in quel momento, si sono ripresi il coltello dalla parte del manico, perché altrimenti non sapevano più che pesci prendere. C'erano le elezioni alle porte, dite, eh? Sì, assolutamente. Anche questo. C'erano anche le elezioni alle porte. Vabbè, comunali a Celico, europee, e poi quelle regionali, dopo che è stato defenestato Scopelliti. Proprio in quei giorni ricordo che votarono alle primarie al Comune di Celico più di 1000 persone, mentre al presidio non si è passati mai le 500-600. Questo anche ci dà la metafora, ci dà il termometro dei tempi. Ce lo ricordiamo bene, infatti l'indignazione che alle prime cifre ufficiali delle primarie a Celico al presidio corse tra le persone in maniera molto forte, insomma eravamo abbastanza incazzati quando sapevamo di queste 1100 persone che andarono a votare alle primarie. Quindi comunque siamo un fiume in pieno oggi, mettiamo un brano poi ci facciamo questa pausa musicale e ci sentiamo. Il nazista là dietro al no, vetro. Giustamente, sono pari chi ci ascolta il nazista dietro il vetro ci impone. Va bene, andiamo con questo pezzo. A dopo. Pensando al mio prossimo caso e a casi della vita, insomma gli affari di un rapper militante. Quando la mia city mi appare devastante, era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante col mio passo di elefante. Ogni incrocio, detriti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mettono paura, prendi assalti. Prendi questa band hip hop. La mafia si è mossa per metterci uno stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri. Qui come lavori, incontri, ritorsioni. Ma bisogna avere fede e allontanare il prete. Dietro ogni vicario c'è sempre porno minorile in rete. Di chi fidarsi qua? E quella guardia, con quella paletta in mano, chiesto a santità. Via veloce, vago, c'è tanto di quel sangue da formare un lago. Su queste mappe i passanti quanto sono brutti. Io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza. Mi sento strana alle menzogne della maggioranza. Non temo il sentimento di allontanamento, sempre zitto, gli acco 0,5%. La libertà. Sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni, si entra e si esce di qua, si entra e si esce, da queste mappe della città, si entra e si esce, cerca di stare in gruppo, la tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Strade, piazze, luci sfocate, segni sui muri, basi occupate. Solo qui in quartiere ce ne saranno 20. Un po' di ossigeno per vivere le vite differenti. Chi alza la testa lo sa che non è un gioco. Bisognerebbe conformarsi prima o dopo. Anche sulla terra si può fare naufragio. A volte sto bene, a volte male, ma coraggio. Questo è niente, a volte si entra e non si esce. Stai lì coi tuoi, l'erba, la carbonella e il pesce. Ti sbattono in galera che sei un'anima bella. Diventi un corpo inanimato in cella. Ricordo Aldo Pianzino, era un falegname nel suo casolare. A chi faceva del male? Come lui, qui c'è gente che non è che t'accompagni. Questa è gente che io voglio come compagni. Con una forza dentro contro ogni potere. Qualcosa che nemmeno immaginavo di avere. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa. E strada ogni volta si rinnova l'attesa. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa. E strada ogni volta si rinnova l'intesa. Ci sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere. Prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi. Minacce, cecchini coi fucili. Documenti, file, notturne, clandestini. Qui incontri, lotte, passi sincronizzati. Colori, capannelli non autorizzati. Uccelli migratori, reti, informazioni. Piazze di tutti, like, pazze di passioni. Si entra e si esce di qua. Si entra e si esce da queste mappe della città. Si entra e si esce, cerca di stare in gruppo. La tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. La libertà dove sta? La trovi nella mappa. Non restare tra la gente distratta. Puoi cercare e trovare la connessione che ti lega a tutte le altre persone. La libertà dove sta? La trovi nella mappa. O resti tra la gente distratta. La città ogni giorno si rinnova. Ti cerca, ti trova, ti metterà alla prova. Nonostante la pioggia erano in tanti a Celico a protestare contro l'arrivo dei primi camion che dovevano sversare nella piccola discarica di servizio dell'impianto di compostaggio del comune Presilano i rifiuti di 49 comuni del Cosentino. Ci sono stati attimi di tensione. Si corre il rischio di subire la carica e di essere poi diffidate l'autorità giudiziaria per resistenza passiva. Il dottore Cantafora ha assunto l'impegno di accompagnare tutti noi, di farsi, come dire, promotore presso la Procura della Repubblica per accelerare, come dire, la vicenda del sequestro preventivo e degli ulteriori accertamenti di cui necessita la discarica. Nel frattempo verranno fotografati tutti i camion che, come dire, passeranno e andranno in discarica, e se ci sono camion che trasportano percolato la notizia verrà immediatamente data al Procuratore della Repubblica. Questo è stato... No. Allora, qualcuno ha messo in evidenza che dov'è la caserma dei carabinieri? Allora, un attimo. Di Celico. Dov'è la caserma dei carabinieri di Celico? Non ci sono 500 metri a dov'è la discarica. Allora, nemmeno 500 metri. Allora, io ho premesso. Tra poco ce la portano nella camera da letto. Alla fine, facendo leva sul fatto che si tratta di una vera emergenza ambientale e che esiste anche un'ordinanza prefettizia, i cittadini hanno concesso il conferimento dei rifiuti, ma la popolazione vuole controllare cosa e quanto si scaricherà nel sito. Infatti si teme che, oltre alla spazzatura comune, arrivi anche del percolato che potrebbe inquinare il territorio. La polizia si è fatta garante dei controlli. Il presidio dei cittadini in tutti i casi non sarà rimosso. Ok, bentornati in onda sempre su Radio Ciroma 105.7 e in streaming su ciroma.org. Abbiamo sentito questo contributo video audio, diciamo questo è un video, però ne abbiamo sentito ovviamente solo l'audio perché siamo in radio. Questo giornalista scriteriato che giustamente, come ricordava prima Alfredo, uno dei tanti che ha parlato di Celico non sapendo neanche dov'è Celico, ha parlato di discarica di servizio, ha uscito di compostaggio, ma 300.000 metri cubi non è una discarica di servizio. Almeno ragioniamo sui numeri. Ha parlato di trasporto di percolato direttamente in discarica. Che cazzo significa? Vabbè. Non esiste. Parole a vanvera. E poi abbiamo sentito i sindaci che riassumevano la trattativa. Stato mafia, esagero. Vabbè. insomma, questa trattativa farlocca in cui la Digos, a nome del prefetto, del governo, del mondialismo totalitario ultragalattico, aveva proposto questo sversamento temporaneo di 10 giorni e poi lo stop agli sversamenti. Ma ricordiamo che l'undicesimo giorno noi ci trovammo su alla sbarra in coda con Aria e fermammo camion sia che trasportavano tal quale, sia che perdevano percolato. Percolato che non trasportavano, il percolato si produce dalla fermentazione dei rifiuti, però è tutta un'altra storia questa. Quindi magari ci si limiterebbe a fare il giornalista di scrivania. Vabbè, come dicevamo prima, insomma, questo è l'esempio del giornalismo, è questa la situazione. Fortunatamente ci sono ragazzi come Alfredo che fanno un servizio realmente libero alla collettività. Sì, gratuito, perché poi così è, dove ci sono i soldi non c'è la verità. È giusto per chiudere. Se vuoi i soldi devi accettare le veline. Dipende, biondo amore. I pizzini magari poi. Vabbè, sì, si sta cominciando a dare i numeri qua. Lo siamo studio, aumentati. Lo studio fratello. Oggi infatti è pieno di gendaglia, cioè, di tutti i tipi. È una vera vergogna che la polizia venga a difendere Capanno. Questo è il maresciallo del comitato. Comunque abbiamo potuto sentire dall'audio quante persone c'erano. Sì, questo era ammasciato ed attende sul posto, non dalla scrivania, ricordiamo. Giusto per chiudere il discorso sul 21 e poi andare avanti, visto che comunque il blocco è perdurato per diverse settimane e salendo anche in alta quota, poi fondamentalmente siamo andati oltre i 1000 metri poi a bloccare sotto la neve, con grande dispiacere della Digos. Quel giorno fondamentalmente abbiamo peccato di inesperienza, perché la gente, le persone che erano lì, la gente è brutto come termine, è bruttissimo, le persone che erano lì, il popolo che era lì insieme a noi, con noi, perché noi siamo parte di loro, avrebbe fatto quello che i ragazzi di tutto il comitato si sarebbero messi in testa di fare. Abbiamo peccato un po' di inesperienza, abbiamo raggiunto sicuramente gli obiettivi, ovvero entrare in una discarica privata, cosa che non era mai successa a nessuno, però diciamo che abbiamo dato il là a uno sversamento che ancora oggi non vede fine. Oggi che è stato rinnovato l'emendamento Orso Marzo all'unanimità nel nuovo consiglio regionale e che è stata rinnovata fondamentalmente un'ordinanza contingibile, urgente, incostituzionale e illegale, in quanto prevede lo sversamento in discarica del tal quale. E soprattutto non c'è un piano rifiuti di qui anche a medio e lungo termine che possa essere messo in pratica, perché ancora non c'è neanche un delegato della regione che si occupa di queste tematiche. Sì, ma perché poi via via che le cose proseguirono fu evidente come le istituzioni, i politici, i partiti che in quel momento particolare presero dei precisi impegni nei confronti della popolazione resistente, poi via via se le sono rimangiate. Ricordiamo il consiglio aperto, ricordiamo i documenti, ci arriviamo. I documenti approvati in consiglio che non sono stati mai applicati, ricordiamo l'impegno in campagna elettorale, l'ultima, dei vari personaggi che si sono presentati con Oliverio, di ritirare l'emendamento Orso Marzo, di presentare un piano rifiuti. Siamo ancora qui il 16 febbraio come un anno fa, esattamente come un anno fa. Ma soprattutto ricordiamo la generosità, nonostante il freddo, nonostante appunto le ambiguità delle amministrazioni, nonostante anche non essere appunto pronti ad fronteggiare quello che era un muro di gomma che via via si andava costruendo, si andava consolidando, cioè la generosità di quelle persone che venivano dopo il lavoro, venivano la mattina prima del lavoro, venivano a pranzo stacco del lavoro, le mamme, i ragazzini, tutta una popolazione che per la prima volta si è mossa a difendere la dignità del proprio territorio, si è mossa contro una speculazione, ben sapendo quello che era la posta in gioco. E questa è la cosa più bella che voglio ricordare. Voglio ricordare le notti al fuoco, voglio ricordare insomma il cominciare a parlare anche di politica tutto tondo. Da lì poi sono nate anche altre esperienze che poi magari illustreremo col tempo. Era giusto ricordarlo, era giusto rimarcarlo questo, perché è stata veramente un'esperienza collettiva a tutto tondo da questo punto di vista. E ricordiamo anche le risate al fuoco, una nottata intera passata a ridere prima che arrivassero i poliziotti il giorno dopo. Quindi poi dicevamo, Italo, continuiamo con questa piccola cronostoria. Sì, ci sono stati questi 10 giorni di farsa in cui siamo stati letteralmente lasciati soli a controllare questi camion, perché ovviamente gli organi preposti al controllo non c'erano. Ricordiamo l'assenza ancora oggi della polizia provinciale che non ha mai volanti per controllare il territorio di propria pertinenza. Non sappiamo, però rispondono sempre al telefono, sono 6-7 persone che rispondono al telefono. Sì, adesso arriviamo anche alle multe. Sì. Ricordiamo che i camion venivano formalmente fermati da noi, che dovevamo chiamare la CIA, la Digos, come cazzo si chiamano, quelli dell'ufficio immigrazione, come si chiama? Vabbè, l'ufficio passaporti c'è a Cantabria. Quello che metti i team. Voglio dire. Timbrarolo. Insomma, dopo questi 10 giorni ovviamente ci aspettavamo quello che poi è successo, ovvero che i camion continuassero ad arrivare imperterriti, in quanto la protervia e l'arroganza del privato che gestisce i rifiuti non ha limiti. Ovviamente puntavano sul fiaccamento del comitato, che nel tempo magari avrebbe affievolito le redine. Invece così non è stato, perché finiti questi 10 giorni è emanata la nuova ordinanza, perché dopo 2 giorni o 3 giorni non ricordo di blocchi in cui i camion tornarono indietro, sotto la neve, sotto la pioggia, al freddo, -2, -3, la regione ha ben visto che doveva fare una nuova ordinanza e quindi ne ha cambiato 4 nel corso poi delle trattative che sono venute in quei giorni e dei tentativi di sgombero di carica che adesso andremo a raccontare, perché poi saliti alla sbarra, perché il blocco si è spostato, rotto il blocco di Piazza della Libertà, questa toponomastica che poi fondamentalmente non è mai stata applicata, in quanto c'è solo la targhetta da noi disegnata fondamentalmente. Vabbè. ma non è Cavenago come da Reggio Emilia, come di cui parlano gli Offlaga Disco Pax, in cui c'era la toponomastica Piazza Lenin e roba del genere. È rimasto solo un nome impresso su un muro, ma fondamentalmente non è stata istituzionalizzata. Vabbè, così, non ce ne frega, non ce ne può fregare di meno. Sì, era giusto per dirlo, che anche su una targhetta fanno chiacchiere, era giusto per sottolineare questo. È impressa nelle coscienze delle persone, è quello che conta. Quindi siamo saliti di quote, siamo saliti anche di livello sia politico che di scontro e di lotta fondamentalmente. E lì si è visto chi è duro a morire, nel senso che lì la notte non abbiamo dormito fondamentalmente, però alle 6 di mattina noi eravamo lì prima dei camion, prima delle forze dell'ordine, prima del sole fondamentalmente, perché alle 6 a marzo è ancora notte. Nel senso che veramente tanta gente che magari alcune persone che dicevano: beh, trovo più soddisfazione ad alzarmi la mattina e venire qua che non andare a lavorare, insomma. È veramente un riappropriarsi della propria vita. Sì, ma infatti, come dicevi prima tu, molta gente, ricordiamo per esempio Emiliano, molta gente prima di andare a lavorare stava lì 2 o 3 ore con noi, e addirittura l'8, molte di queste persone si sono beccati una denuncia non essendo presenti nei momenti in cui è stato tentato di sgomberare il blocco. Eh sì, perché hanno raccolto i nominativi così random e hanno Ringraziamo il maresciallo Sasso per quella raccolta. Non dire Sasso se non ce l'hai nel sacco, non era questo, no? Più no, o meno. E quindi l'8 marzo, arriviamo all'8 marzo, che è il giorno delle donne, e le donne presilane, le zaccanelle come le abbiamo soprannominate noi, erano in prima fila, con i fiori in mano. Ricordiamo delle splendide foto. ecco qua, Oreste Cagliato Tabirlander. E ricordiamo quindi le donne presilane che erano proprio in prima fila contro un reparto della Celere schierato. E caschi, scudi, manganelli, asce, mortaletti, molotov e tutto il resto. E ricordiamo appunto pure gli ordini del dirigente di piazza di quel giorno, che a tutti i costi voleva farci andare via, ha provato a convincerci, non ci è riuscito, e poi diede l'ordine delle cariche, ricordiamo delle cariche molto leggere, dobbiamo essere obiettivi, un mutta classico, in cui stavano facendo una brutta fine perché erano tutti ragazzini, noi eravamo in soprannumero e li stavamo buttando giù da una scarpata. Ricordiamo benissimo l'immagine di... non l'avremmo mai fatto, ma ricordiamo benissimo, io mi ricordo benissimo perché ero viso a viso con dei ragazzini che avranno avuto 20 anni, che erano più impauriti di noi. Vabbè, la scena fondamentalmente, se la posso raccontare nel particolare, fu questa. Diede l'ordine di spingere e cominciarono a spingere. Naturalmente, essendo inferiori di numero, però sicuri della loro tracotanza, ci fu qualche passo indietro da parte nostra. Però fecero quello che non dovevano continuare a fare, cioè veramente offendere la dignità. Scudi in faccia alle persone, manganellate sulle mani e qualche calcio ai piedi. Al che la gente, giustamente, ha cominciato a incazzarsi e qualcuno cominciò a dire, vabbè, allora spingiamo anche noi. E allora si cominciarono a vedere gli scarponi che scivolavano della polizia, fino anche che poi arretrarono di 4-5 metri, al che poi il dirigente di piazza dice fermi, trattiamo. E quindi l'8 marzo riuscimmo a fermare non soltanto i camion, ma riuscimmo a fermare proprio un reparto della Celere e bloccammo l'ennesima ordinanza illegale da parte della Regione Calabria. Che spinse con la forza popolare, come diceva una famosa canzone. Sì, esatto. E quindi si arrivò, era sabato l'8 marzo se non vado errato, sì. Poi ci fu questa tregua di un giorno, domenica, in cui noi comunque fummo lì, ma la polizia non arrivò. Ci fu una trattativa in prefettura durata ore che non portò a nulla, che continuò anche lunedì mattina, ma non portò a nulla, l'ordinanza non fu ritirata e il 10 mattina il reparto della Celere, forte di più uomini rispetto all'8 marzo, di un autocompattatore si ripresentò e tentò nuovamente la forzatura del blocco. Sì, scena che non si vedevano dai tempi di Scelva oppure di qualcun altro, puoi ricordare l'11 ottobre a Roma, cioè il camion si lanciò contro le persone. Questa fu veramente un'altra scena schifosissima che si vide in presilo. Ma di questo, secondo me, è meglio che parliamo dopo la canzone. No, quale puntata? Dopo la canzone. Un'altra puntata. La maratona non sto. È la puntata speciale, come un'altra puntata. Dobbiamo arrivare almeno fino al 10 maggio. Dobbiamo arrivare almeno fino al 10 maggio. Quindi mandiamo un'altra canzone e ci risentiamo tra poco. Built big factory. Bentornati e bentornati in studio, sempre su Radio Ciroma, 105.7 ciroma.org. Stavamo raccontando il 10, il secondo giorno di storia della Presila. Ricordavo appunto la riunione in prefettura lunedì mattina con già i reparti celere della finanza schierati su alla sbarra, con la popolazione presilana schierata su alla sbarra. E poi che cosa successe, Italo? Ricordiamolo che cosa successe, perché fu un altro giorno. Beh, quel giorno fu un giorno abbastanza nero per le forze dell'ordine, in quanto loro cercarono di usarono come ariete un autocombattatore di Ecologia Oggi, addirittura rischiavano di investire qualcuno. Gli stessi poliziotti erano, diciamo, abbastanza intimoriti dal fatto di poter essere investiti loro stessi, perché cercavano di spostare i manifestanti, e dietro di loro si avvicinava questo camion sotto ordine della Digos. C'era un dirigente lì apposta, sembrava un personal coach, che pressava l'autista: vai tranquillo. E ovviamente quel giorno poi ci fu anche un incidente, nel senso un ragazzo rimase leggermente contuso, perché comunque spingendo le persone si accalcarono e venne schiacciato fondamentalmente. Raffaele, salutiamolo. Sì, Raffaele. Ciao Raffaele. Sì. A proposito di saluti, ci ha raggiunto anche Daniele Teatro Clandestino, grande compagno di lotta, ci ha dato un grande contributo sia durante che dopo. E poi salutiamo anche, ne abbiamo parlato prima, il mitico Bruno che è andato a Milano per lavoro, però ci ascolta sempre. Lo abbracciamo forte. Quel giorno, diciamo, fu un pilastro del gruppo, sì, logistico, sì, pilastro proprio, attenzione, del presidio proprio. Il comandante Bruno. Quel giorno, diciamo che fu comunque una grande giornata di resistenza, perché il blocco resistì alla carica dell'autocombattatore al grido "la Presila paura non ne ha". I poliziotti, diciamo, dovettero arrendersi anche quel giorno, perché i sindaci tra una prefettura e una regione riuscirono con la resistenza popolare a cambiare un'ordinanza. L'ennesima volta fu cambiata un'ordinanza a causa per la protesta che stava avvenendo lì alla sbarra a Celico o Spezzano, cos'è lì? Vabbè, in Presila. Sì, vabbè. L'accesso in discarica. Sì, assolutamente. Quindi anche quel giorno fu una grande vittoria della popolazione, che insieme, qua arrivano messaggi, anche Emiliano, salutiamo anche Emiliano, qua arrivano messaggi, oggi c'è un bordello. Anche Emiliano è immigrato, lo salutiamo e lo abbracciamo. Speriamo temporaneamente tutti e due. Speriamo. Ecco, quindi Italo, ci siamo arrivati pian piano, mi piaceva proprio raccontare questa cosa da un popolo simile a quello della Terra dei Fuochi, perché anche la Calabria ha la sua Terra dei Fuochi, sono molte, sono in silenzio totale, le persone sono lasciate ai loro mali, mali che non vengono dal Signore, come disse un prete quelle sere, ma vengono dai signori. E siamo arrivati invece ad un movimento di lotta che è stato un nucleo più, anche più riconoscibile, quindi più esposto, più isolato, come dicevamo prima. E la lotta si è trasformata in quella, anche il coro, la Presila paura non le ha, non è che somiglia a quello della Valsusa, quindi un movimento più no discarica, un movimento più specifico. Quello che mi piace sapere da voi in questo momento, prima che arriviamo alla grande manifestazione di Cosenza, penso che ci arriveremo, vedo che siete lanciati verso quello, dove andiamo a parare un anno dopo? Cosa è rimasto da rilanciare di quell'esperienza collettiva, di quell'esperienza di resistenza popolare? Questa mi pare la cosa che più mi interessa ascoltare, ringraziandovi dell'invito e salutandovi e dicendovi che ci rivediamo presto, che siamo ancora qui a resistere e a raccontare cosa succede nei nostri territori, che non sono morti e vivono solo quando succede qualcosa di clamoroso, ma vivono ogni giorno con i loro problemi e le loro speranze, la bellezza soprattutto di quel posto. Ricordiamo la bellezza soprattutto di quel posto, che è stata stuprata, perché un parco nazionale della Sila, che è patrimonio del Mediterraneo, non può diventare il cuore dei rifiuti. Non può diventare il cuore dei rifiuti, questa è una cosa intollerabile che continuiamo a non accettare assolutamente. Dove andate a parare? Raccontatecelo. Allora, grazie innanzitutto della tua presenza e del tuo contributo, come sempre, e di tutto quello che fate all'ambasciata. Dove andiamo a parare? Beh, la strada fondamentalmente è tracciata. Il nostro obiettivo è quello di innanzitutto di arrivare finalmente in Calabria, anche con il contributo, non sto parlando a nome del Comitato Ambientale Bresilano, ma a nome di tutti i comitati, mi arrogo questo diritto, a nome di tutti i comitati calabresi, perché l'obiettivo è quello di arrivare a un piano di rifiuti veramente moderno, che è la soluzione dell'emergenza cronica e ultradecennale, un piano dei rifiuti che abbia come titolo nel titolo la parola rifiuti zero, e nei fatti soprattutto, che è l'unica strategia possibile di risoluzione di questa problematica così annosa. Sicuramente per arrivare a questo c'è bisogno ancora una volta della pressione popolare. Quindi che cosa faremo noi da qui in avanti? Continueremo a sensibilizzare la gente, a portare la gente per strada, a portare la gente davanti ai palazzi del potere, a fare il quanto più pressing possibile sulle istituzioni affinché finalmente venga approvato un piano dei rifiuti realmente moderno e realmente efficace. Quindi costruiremo forse anche altri blocchi, sicuramente altri blocchi, costruiremo una rete regionale più forte, cercheremo di costruire una solidarietà tra i vari territori, cosa che è mancata in alcuni frangenti e manca tuttora, costruiremo tutto questo. Questo è il lavoro difficile, duro, complicato, però necessario, è l'unico che può davvero farci arrivare a un risultato e un obiettivo. Questa penso possa essere una risposta abbastanza completa. E soprattutto quello che occorre è un cambio deciso e forte di mentalità. Cioè, questa esperienza comunque ha fatto approcciare molte persone ad un diverso modalità, insomma, di trattare i propri rifiuti, perché una persona non è soltanto quello che mangia, quello che sente in TV, ma anche quello che tratta nella propria vita. Cioè, i rifiuti vengono comunque prodotti da ognuno di noi e ognuno di noi dovrebbe essere consapevole del come trattare i rifiuti. Grazie agli sforzi del Comitato Ambientale Presilano finalmente è partita la raccolta differenziata a Cosenza, ricordiamolo, perché una delle varie questioni che uscì fuori fu appunto la questione dei rifiuti di Cosenza, no? Così come anche in Presila, quella che adesso è diventata una querela, insomma un po' una barzelletta, dei rifiuti dell'80% al 93%, quando in realtà questi rifiuti sì, sono raccolti tutti, cioè ogni famiglia consegna tutto ai vari nei turbini che passano la mattina per la plastica, per la carta, per l'organico, eccetera eccetera. Sì, è vero, noi raccolgono tutto, ma quanto di questa frazione viene effettivamente differenziata? E questa è la querelle che evidentemente non sta soltanto ai comitati, ma è la problematica dei rifiuti in Calabria, così anche in tutta Italia. Cioè, in questo bisogna cominciare ad avere un approccio più di ecologia sociale, cioè verso la riduzione a monte dei rifiuti, verso una riprogettazione, così come si è detto in quel di Novacco, quando i comitati calabresi si ritrovarono e diedero vita ad un documento in cui c'era scritto a chiare lettere che bisogna riprogettare, e soprattutto nei territori le popolazioni sono autorizzate, devono essere consapevoli di quello che viene prodotto, cioè dalle fabbriche, dalle industrie, gli imballaggi, eccetera eccetera. Puntualizzazione, scusate un attimo, il microfono mi stava volando di mano. Puntualizzazione penso doverosa perché è un passaggio obbligato quello del cambio di mentalità, proprio di consapevolezza da parte delle persone a un consumo critico e consapevole. Cosa che, tra l'altro, Italo, tu che fai parte del gruppo studio del comitato, state portando avanti anche nelle scuole, sì, come abbiamo ripetuto più volte, quindi partendo proprio dal basso, dai bambini, e che poi si fanno cinghia di trasmissione di questa conoscenza proprio nelle famiglie. Che sono... Assolutamente, l'ultima volta abbiamo dato un'intervista da fare ai nonni, ai bambini, per vedere la differenza di come ci si comportava una volta con il materiale che si aveva a casa e come ci comportiamo oggi. E ovviamente da lì, da questa intervista, è uscita che una volta non si buttava via nulla fondamentalmente, mentre oggi consumiamo e buttiamo, perché siamo diventati questo purtroppo, molti di noi, però si può e si deve cambiare. E sempre in merito a quello che dobbiamo fare e che dovremmo fare in questi giorni, in questi mesi a seguire, sicuramente dovrà essere reiterato un blocco, perché altrimenti, se non ci sarà la pressione popolare, questa classe politica non cambierà di una virgola quello che è stato fino ad oggi, e l'abbiamo già visto con i primi atti messi in essere dalla nuova giunta regionale, esaltati anche addirittura da un'associazione nazionale come Lega Ambiente, che in un comunicato vergognoso ha addirittura ha esaltato fondamentalmente quello che ha fatto fino ad ora la giunta Oliveri, ovvero ripetere in poco tempo le politiche del governo Scopelliti. Sì, la politica delle pacche sulle spalle, insomma, non me ne vogliono Lega Ambiente, che ricordiamolo, in quei giorni del presidio venne lì un solo giorno con le sue brave bandierine, con la RAI a seguito, cioè senza offese, insomma. Non è soltanto con l'impegno di uno giorno spettacolare con le bandierine in una lotta dove ci sono state delle persone che hanno dormito, l'abbiamo ricordato, con tanti sacrifici a portare avanti una lotta, a farsi vedere soltanto un giorno con le bandierine, nemmeno che meno con un comunicato in cui comunque sostanzialmente, se uno vuole sa leggere insomma l'italiano per quello che mi hanno scritto Francesco Falcone di Lega Ambiente, che poi se ne è rammaricato perché molti comitati ambientali gli hanno risposto picche, cioè ma che stai a dire, insomma, sostanzialmente le pacche sulle spalle a Oliverio in questo momento non servono, perché soprattutto va a portare avanti quella che è la stessa politica di Scopelliti ed Orso Marzo. E quindi ricordiamo sempre che questa discarica, nonostante gli sia stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale lo scorso 27 ottobre, opera in una parziale illegalità, in quanto l'impianto non è assolutamente alla distanza, non rispetta la distanza minima dai centri abitati, sia da Rovito che da Celico, non rispetta le distanze dai corsi d'acqua, ricordiamo il Pinto e il Cannavino che sono pesantemente inquinati. Sono pesantemente inquinati, il loro percorso è proprio a fianco alla discarica, una a destra e una a sinistra, come a chiudere in un cerchio magico questa montagna disastrosa, disperata, ricolma di rifiuti. Non rispetta le distanze dalle strade, dalla ferrovia. E in più la stessa Arpacal ha ritrovato questo valore oltre soglia del magnesio, però senza effettuare ulteriori indagini ha stabilito che è un valore di soglia, e quindi da lì si partirà per le successive indagini. Ma ricordiamo che per stabilire se è un valore di soglia bisogna caratterizzare la zona, quindi... Sì, ma c'è un particolare interessante su questo punto, perché l'Arpacal nel considerare quel valore come valore di fondo, quindi per le future rilevazioni, dimentica colpevolmente e penso consapevolmente che sul quel territorio insiste una vecchia discarica che era stata già chiusa all'esercizio e che non è mai stata bonificata. Sì, quindi, quella che perde percolato. Esatto, quella che abbiamo dimostrato, abbiamo documentato più volte come continua a sversare percolato nel territorio. Quindi importante anche il ricorso al TAR, anche in memoria di quello che è successo in questi giorni, ovvero la questione MUOS, dove il ricorso al TAR è stato accolto e quindi in questo momento il MUOS, se opera nella totale illegalità per quanto riguarda lo Stato italiano, quindi vuol dire che bisogna andare avanti anche da questa prospettiva, anche se mai non ci si crede tanto in questa direzione, però comunque è un mezzo e bisogna sfruttarlo. Un passaggio obbligato anche questo. Sì, e infatti salutiamo comunque tutte le lotte territoriali in questi anni, non soltanto appunto quelle delle discariche in Campania, ma appunto il Nomus, il Notav, eccetera, eccetera, tutte quelle popolazioni in lotta per il proprio, per la proprio futuro, per la dignità del proprio vivere, insomma. Evidentemente sì, ai TAR poi comunque si possono fare dei ricorsi, anche qualora il TAR, la nostra insomma proposizione al TAR sicuramente vince, insomma, perché le leggi sono quelle, non possono far finta, però evidentemente poi quello che ci si aspetta è un cambio radicale delle politiche, e questo può avvenire ancora una volta con la mobilitazione popolare, facendo finalmente piazza pulita di tutta questa gentaglia, classe politica, casta che è soltanto arrogante. Però ricordiamo comunque che questo ricorso al TAR ha avuto un peso perché c'è stata una protesta popolare, altrimenti l'avessero presentato due avvocati e quattro associazioni ambientaliste probabilmente non sarebbe stato accolto, quindi è importante ricordare come la pressione popolare sia fondamentale, quindi il blocco, la manifestazione, i sit-in di protesta davanti alla prefettura, davanti all'ARPA, alla regione, l'occupazione anche dei comuni, qualora questi non si mettessero a disposizione del volere popolare, perché i comuni devono mettersi a disposizione del volere popolare e non devono arrogarsi il diritto di fare battaglie partitiche, perché il comune è di tutti, al di là del sindaco e del partito che in questo momento gestisce il comune per volere popolare. Quindi è il caso che in queste situazioni, in queste lotte univiche ambientali, ci sia una compattazione e non una gara a, scusate la volgarità, a chi ce l'ha più lungo, perché qui non si tratta di salvaguardare il posticino di lavoro o la propria carriera partitica, ma si tratta di salvaguardare un territorio intero, le persone che oggi ci vivono e soprattutto le persone che ci vivranno nei prossimi anni, perché ricordiamo che i danni delle discariche si protraggono e si protrarranno a meno che di bonifiche per oltre 40 anni. Anni. È il percolato che viene prodotto, quello pericoloso, è quello che si produce dopo i 30 anni e secondo la normativa vigente in Italia, dopo 30 anni la discarica può essere fondamentalmente abbandonata, anche non bonificata, e quel percolato sverserà se l'aria non viene bonificata. Giusto per ricordare un attimo, non per entrare nel tecnico, però dopo 30 anni il percolato che fuoriesce dalla discarica ha un pH alcalino ed è molto più dannoso per l'ambiente rispetto al percolato che oggi si produce in discarica, che viene captato con, nelle vasche e poi raccolto negli appositi cisterni dove porteranno a smaltimento il percolato stesso. Quindi perché è importante fare le bonifiche? Anche per questo. E perché è importante, noi chiediamo la bonifica della discarica a monte di quella attuale, che perde percolato ed è interessata solo da un piano di messa in sicurezza operativa, ovvero semplicemente una mitigazione e un contenimento dell'inquinamento e non assolutamente un'eliminazione né parziale né totale dello stesso. Visto lo stato in cui versa quella discarica... Lo consideriamo un palliativo inutile e anche dispendioso dal punto di vista economico, perché ricordiamo che, se non vado errato, la cifra si aggira intorno ai 530.000 euro. Sì, le cifre di bonifiche messe in sicurezza sono molto elevate. Zona andrebbe assolutamente caratterizzata e chiusa completamente, compresa la discarica operante in questo momento, e messa a bonifica. E comunque c'è sempre da chiedersi chi è che paga i soldi delle bonifiche. Cioè questi costi poi vanno realmente ad incidere sul bilancio dello Stato e quindi sulle tasche di ognuno di noi, e quindi non soltanto c'è una mancanza, poi un taglio magari dei servizi, cioè si tagliano gli ospedali, si taglia la scuola, si taglia la ricerca, si tagliano le università, per andare poi a finanziare ancora una volta le solite imprese che già hanno fatto i danni, per poi ridargli di nuovo dei lavori. Lavori con cui poi, ricordiamolo ancora, col Job Act e tutte le altre porcherie che stanno mandando avanti, le persone vengono sempre pagate di meno, con meno diritti. Quindi è chiaro che affrontare qualsiasi punto di qualsiasi questione, situazione reale, concreta nel territorio, apre delle dimensioni politiche in tutti gli altri aspetti. È proprio così. È proprio così. Quindi... Queste precisazioni doverose le abbiamo fatte appunto perché il discorso è veramente ampio, è veramente complicato e difficile. Quindi abbiamo raccontato fino a questo punto, continuiamo nella nostra cronostoria. Abbiamo un pezzo da mandare. Dovrebbe essere il pezzo di Francesco, Sex and Helvetic System, un membro del comitato. Grande batterista. Grande batterista. Maledetto. Allora, bentornati di nuovo qui in studio, 105.7 Radio Ciroma e ciroma.org per questa puntata speciale per il Comitato Ambientale Presilano e di conseguenza per tutti i comitati calabresi che lottano per la salute e per l'ambiente calabrese. Allora, stavamo ricordando quei giorni di passione, quei giorni in cui le esperienze collettive si fusero in qualcosa di meraviglioso e furono momenti di sperimentazione sociale, furono momenti di solidarietà molto, molto, molto significativi. Alcuni ragazzi dal comitato composero anche una canzone che adesso, in un esperimento che facciamo per la prima volta qui a Radio Ciroma, eseguiranno appunto Lulu e Paolo in diretta. Quindi questo era la colonna sonora del nostro presidio. L'abbiamo cantata più volte, l'abbiamo ascoltata e riascoltata, e oggi i ragazzi sono qua per farcela ascoltare in diretta, quindi potete cominciare. Vabbè, prima di iniziare, niente, vorrei ringraziarvi per avermi accolto, sono molto onorato. E in quei giorni, diciamo, di freddo, a quel calore che avete diciamo, contribuito voi, abbiamo contribuito anche in quella piccolissima parte, anche noi del Comitato Difesa Territorio Donnici. Vi ringrazieremo sempre. E in particolare una di quelle mattine, mi ricordo, sulla terra fredda, abbiamo cantato io insieme a Lulu questo brano che vi faremo ascoltare. Buon ascolto. Grazie. Bagna schierata a mezza via, o compagno da presila, che stava accanto a mia, capuccia ditto, aviti minari, c'ha mu rispuso, vinna vitire, carica sì, carica no, la presila resiste, la discarica no, carica sì, carica no. La presila resiste, la discarica no. Ho visto un popolo coraggioso e fiero, un popolo guerriero come un blocco nero. Ho visto un popolo lottare per amore contro il mafioso, contro il vostro onore. Presila esiste, la presila resiste come Davide a Golia, noi vi cacciamo via. Presila esiste, la presila resiste, questa è la gente mia, questa è la terra mia, questa è la gente mia, questa è la terra mia. Io farei un applauso. Sì, furono anche dei momenti di gioia, di passione, insomma. Me lo voglio anche ricordare, sì, delle coppiette che si formarono, delle persone che si conoscevano, persone di diverse età. Finalmente, ecco, nei nostri territori la persona anziana stava con il giovane, si sentiva raccontare delle storie, i ragazzi gli raccontavano tutte le inquietudini di questo mondo di oggi, in cui non si trova lavoro, in cui l'università sembra non finire mai, in cui c'è l'incertezza del quotidiano. Ecco, quella lotta servì anche a questo, servì finalmente a far riconoscere un pezzo di umanità della presila, servì finalmente a rimettere insieme, insomma, delle storie, un vissuto e una voglia di qualcos'altro, insomma, qualcosa che evidentemente non poteva stare nelle sezioni dei partiti, non poteva stare nelle fredde mura dei comuni, semplicemente si espresse lì con forza, con passione e anche con gioia. E quindi grazie Grazie per questo. È riuscito bene, l'esperimento è andato bene. Il pezzo è bellissimo, come avete potuto sentire. È molto, molto sincero, nasce, è nato veramente da, dal cuore di tutti noi in quei giorni lì. Poi continuiamo con questa piccola cronostoria. Ricordavamo gli episodi dell'11 in cui la nostra strenua resistenza portò al ritiro delle ordinanze che autorizzavano lo sversamento del tal quale in discarica. Ci fu una parziale retromarcia da parte della regione che riapprovò una nuova ordinanza in cui imponeva il pretrattamento dei rifiuti come, come legge impone. Sì, un parziale pretrattamento dei rifiuti, semplicemente la deferrizzazione e la triturazione previa a banca in discarica, anche perché è previsto dalla normativa per ridurre i volumi. E come non ricordare le facce funere dei sindaci quella sera in cui ci dissero: questa è l'ultima e unica proposta che si possa ricevere. Sì, vabbè, ma figurati, ricordiamo a proposito di sindaci, Corrado che cacagliava quasi, ricordiamo che i sindaci, sempre alla sbarra ci fu un consiglio comunale aperto, congiunto, sotto una pioggia battente, sotto un vento che sferzava freddo, a dire basta, dove questi sindaci fecero una bella passerella con i confaloni dei comuni e Corrado portavoce, Corrado ex sindaco di Celico, oggi assessore all'ambiente, consigliere Celico all'ambiente. Che si era dimenticato il gonfalone, non so perché, forse il destino, il karma. Presero degli impegni precisi, approvarono un documento del Comitato Ambientale Presilano che spingeva le amministrazioni ad andare a applicare delle politiche verso rifiuti zero, cosa che oggi a un anno di distanza ancora non sono state applicate. Sì, quel documento, ricordiamolo, fu approvato in quasi tutti, se non tutti, i comuni presilani. Sì, quelli che erano presenti lì. Erano insomma una serie di punti di indirizzo che il comitato aveva stilato e che ad oggi non sono mai entrati realmente in vigore, non sono mai stati applicati. Dal punto di vista, diciamo, furono delle piccole vittorie del comitato, però poi tradotte in beffe, perché come dicevamo prima, la politica partitica istituzionale poi sviò e con loro le persone che credettero ancora una volta a questi impegni presi, anche scritti, ma anche non scritti. Rispettati. Sì, in forma solenne sembrava veramente fatta. Abbiamo avuto sì anche fiducia, abbiamo dato credito, perché no, ammettiamolo, abbiamo sperato ancora una volta che quei sindaci saliti lì a mille metri di quota con tutta la stampa veramente per la prima volta forse non avrebbero fatto soltanto passeggiate, solo chiacchiere, ma dato consistenza, sostanza a una politica finalmente che cambiava verso. Però in effetti non fu così, tant'è che poi nel corso poi dei giorni successivi, vabbè, ricordiamo il pupazzo di neve che aspettò i poliziotti. Perché poi il giorno successivo praticamente il blocco formalmente per quel giorno si sciolse e arrivò un vero e proprio esercito. Sì, ricordiamo 6 blindati della polizia, stracolmi di poliziotti. Che trovò a sbarragli la strada un bel pupazzo allora, di neve. Per la precisione c'erano 5 di polizia, 3 di carabiniere, 2 di finanze, la forestale, la polizia provinciale, i pompieri e anche un'ambulanza. E trovarono soltanto un pupazzo di neve lasciato da noi il giorno prima. E quando giusto 3-4 persone salimmo per andare a sciogliere il presidio, a riprendere il gazebo, ricordiamolo, eroico gazebo del Proloco di Serrapedace, i 90 euro ancora di ramaglia, ancora gli stiamo... va bene, quella è un'altra parentesi, ringraziamo sempre la Proloco per essere stata di Serrapedace, è stata molto solidale. Bene, quando andiamo a sciogliere quel presidio, a riprenderci un po' i nostri rifiuti, le bottiglie di vino, qualcosa che era rimasta lì da mangiare, eccetera, sotto il gazebo, troviamo ancora una volta l'arroganza del solito ispettore responsabile della sicurezza, il dottor Cantafora, che dice: no, non lo potete prendere. E tu guardi, tutto questo assembramento che oggi avete portato qua è inutile, come lei saprà. A Catanzaro si è raggiunto un accordo No, sì, vabbè, qua là. Dopo circa un quarto d'ora ci mandò di nuovo a chiamare, vabbè, potete riprendere il gazebo. Per cui fu del tutto inutile, insomma, quel centinaio di poliziotti e più che salirono sopra, quando ormai la lotta era da un certo punto di vista vinta. Quindi quanti soldi buttati, anziché essere investiti nella lotta all'andrangheta, vengono investiti nella soppressione dei diritti e della libertà di un popolo che si vuole determinare e vuole proteggere il proprio territorio dalla protervia della mala politica e anche di una, come dire, addetta degli inquirenti, di una, insomma, di personaggi poco lucidi, poco borderline, sì, imprenditori borderline che vogliono fare business sui rifiuti. Ricordiamo che in questo momento la discarica è formalmente chiusa, nel senso che stanno predisponendo il capannone per rinchiudere le vasche, dove viene, una volta veniva lavorato l'umido e oggi viene lavorato il tal quale leggermente pretattato per produrre il famoso FOS, di cui gli scarti vanno in discarica fondamentalmente. È un, come dire, un compostaggio fittizio, diciamo, perché sì, è fatto con il materiale indifferenziato. Perché loro pensano che riducendo l'emissione odorifera, che come ricordiamo da 8 anni invade Rovito e non solo, Celico e anche Spezzano, ce l'hanno detto i ragazzi delle scuole medie dove noi facciamo il nostro corso, che arriva anche a Spezzano la puzza, e loro pensano di poter risolvere il problema dell'opposizione popolare, ma non sanno che con quel buco in quella montagna hanno deturpato, come giustamente aveva sostenuto Alfredo, una delle zone più belle d'Italia, dove si respirava fino a pochi anni fa, a detta degli organi competenti, l'aria più pulita d'Europa, mentre oggi appena arrivi lì vedi questo buco che sprigiona male odori e che imbruttisce totalmente una montagna splendida. Un saluto a Paolo, grazie Paolo mille. Paolo se ne va, ciao Paolo, grazie di tutto, ciao. Ah, ci sono, grazie a voi, buona continuazione ragazzi. Ciao Paolo. A presto, ciao. Insomma, operiamo in questa situazione e noi per questo prevediamo che ancora una volta sia necessaria appunto l'opposizione popolare. Poi ritornando all'anno scorso, giusto per trovare una conclusione della puntata, diciamo che il percorso del comitato è continuato con una serie di iniziative senza sosta fondamentalmente. C'è Oreste che va avanti e indietro. Sì, Oreste sempre random, figurati. Vabbè. La genialità non trova freni. Babbo, ok. Sì, per chiudere, tante iniziative, come ancora oggi si seguono tante iniziative. Ricordiamo che ci sarà un incontro pubblico sabato prossimo a Celico per aggiornare la popolazione su quanto sta accadendo. Ce n'è stato uno a Rovito, ce ne sono stati più di uno a Rovito, ce ne saranno negli altri paesi, per poter arrivare a una presa di coscienza collettiva che ci permetta di riformulare un'altra volta un'opposizione territoriale degna di nota, che possa comunque incidere anche sulle decisioni politiche prese dall'alto. E poi arriviamo l'anno scorso a questa giornata del 10 maggio, che diciamo ha chiuso un po' il cerchio di quelle che sono state le lotte invernali, non solo a Celico, dove Bisignano, a Donnici e tutti i comitati Serra Stretta, Pianopoli, a Reggio Calabria, ricordate Badolato, ricordatemi tutti i comitati, Castrovillari, Alessandria del Carretti, Prendo Casa, insomma ci fu una partecipazione abbastanza numerosa, che per Cosenza forse non si ricordava una partecipazione così grande dalla manifestazione per gli arresti dei Neoglobal, del processo del Sud Ribelle. Quindi è stato un grande successo che si è concluso con un'assemblea pubblica a Corso Mazzini, ultra partecipata, ultra sentita, in cui i comitati si sono dati appuntamento poi a Piano Novacco. Poi diciamo che c'è stato una sorta di alleggerimento per via di una serie di circostanze che non è questa la puntata in cui dobbiamo discutere, che però alla fine dobbiamo riprendere, come ha detto, sottolineato prima Francesco, perché uniti, abbiamo visto a Celico, uniti si può cambiare le sorti della situazione, ma da soli non si va da nessuna parte. Sì, perché insomma, se c'è una lezione che possiamo trarre da tutto questo anno, adesso a chiusura, dopo 365 giorni di mobilitazione, di attività, di politica vera, dal basso, se c'è una lezione che abbiamo imparato tutti quanti è che solo se si prende coscienza di alcune cose, solo se la si fa insieme, una lotta poi porta a dei risultati. Delegare, continuare a delegare a politici, a partiti, ad istituzioni, a chi che sia, non porta a niente se non a continuare a fare gli interessi di chi su queste cose ci mangia. Non si parla solo di rifiuti, ma di tutto, di tutta la vita sociale di un paese. Quindi la lezione più importante è proprio questa, e da qui ripartiamo, da quel 10 maggio, dall'esperienza collettiva di tutti i comitati calabresi che sono riusciti ad organizzare uno degli eventi politici più significativi del 2014 qui in Calabria, una manifestazione che ha portato in strada oltre 5.000 persone, che ha visto l'assenza dei partiti, perché i partiti... Un'assenza decisa, l'assenza delle istituzioni, c'erano sì, no, un paio di sindaci, sì, se non ricordo male. Uno a metà è sviato. Quindi un'esperienza davvero, davvero unica da questo punto di vista. Quindi i comitati calabresi partiranno da quel 10 maggio, idealmente da quel 10 maggio, è quello che il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è di ritrovare nuovamente forza e coraggio per una battaglia che ci riguarda, che riguarda tutti quanti, che riguarda un popolo intero, che non riguarda solo i comitati, non riguarda solo i partiti, non riguarda solo chi volete voi, riguarda tutti, riguarda i bambini, riguarda le donne, riguarda gli uomini, riguarda un popolo intero. E quindi ripartiamo da qui. Sì, perché comunque bene o male questa nuova giunta prima o poi dovrà scriverlo, questo nuovo piano dei rifiuti, quindi noi dobbiamo farci trovare pronti e essere incisivi nella stesura di questo piano e imporci, perché noi vogliamo solo una cosa: la risoluzione del problema, non palliativi, impianti beceri, vecchi, inquinanti. Vogliamo rifiuti zero. Rifiuti zero significa impegno, informazione quotidiana, sensibilizzazione quotidiana, riduzione a monte, non solo il riciclo. Il riciclo è l'ultimo step dei rifiuti zero. Prima del riciclo ci sono altre R: riduzione a monte, riuso, riparazione, riutilizzo, e poi c'è il riciclo. Il riciclo è l'ultima via, è l'ultima strada. Dobbiamo riciclare il meno possibile, nel senso, perché non buttiamo via nulla, perché altrimenti comunque l'inquinamento e gli impianti saranno sempre necessari. Noi non vogliamo più inceneritori, non vogliamo più discariche, perché è possibile, l'abbiamo visto, ci sono realtà sia grandi come San Francisco, ma anche Los Angeles, città grandissime, metropoli, che applicano questa strategia e che la stanno applicando, e si sono dati degli obiettivi a lungo termine da raggiungere. San Francisco nel 2020 sarà una metropoli a rifiuti zero, ma ricordiamo l'esempio italiano, Capannori, un comune che nel 2020 raggiungerà anche prima, forse a detta del sindaco, e ricordiamo che del PD il sindaco di Capanne dovrebbe essere portato a spalla come una Madonna, e invece è semplicemente lasciato lì, questo esempio virtuoso. Ricordiamo quindi Capanne anche prima del 2020, a detta delle ultime dichiarazioni, raggiungerà l'obiettivo rifiuti zero. Capanne è una città di 45.000 abitanti. La Presila, tutti insieme, arriva a 30.000 abitanti, quindi coadiuvando le politiche di gestione e raccolta rifiuti, riduzione, sensibilizzazione, potrebbe tranquillamente arrivare a questo obiettivo, senza nessuno spreco di energie, nessun impianto. Vai, Ore, dici. Sì, giusto ritornare sul 10 maggio, fra i comitati che siamo dimenticati prima, insomma, nel Purpallè c'era Diamante, Scalacieli, Cariati, Crotone. Ecco, sì, effettivamente noi non siamo pronti quanto sono pronti i politici. Loro c'hanno i soldini, c'hanno i loro belli stipendi, c'hanno le loro belle macchinine blu. L'unica cosa che purtroppo non si può riciclare è questa casta politica, perché come ha detto prima Italo, ci sono le opzioni da poter coltivare e portare avanti. Tocca a noi ritessere i fili a livello regionale, dare le giuste risposte ad Oliverio, che non siano le pacche sulle spalle di Legambiente. La rete c'è, ci si sente via mail, via telefono, però bisogna ricominciare a riorganizzare dei momenti di lotta, dei momenti di mobilitazione a livello regionale. Su questo stiamo naturalmente lavorando. E quindi questo è l'auspicio che lanciamo dopo un anno, dopo 365 giorni di lotta, e questa lotta ancora continua tutt'oggi, come, come abbiamo rimarcato più volte in questa puntata speciale, una lotta che continua e continuerà ancora. Quindi diciamo, restate connessi sugli indirizzi del comitato, ricordiamo il blog Cometa Ambientale Presilano.wordpress.com, la pagina Facebook Cometa Ambientale Presilano e la mail Cometa Ambientale Presilano presila@gmail.com. la mail, vabbè, è un pochino così, lo dobbiamo dire sempre. E quindi siamo arrivati alla fine, ci sentiamo lunedì prossimo con, sì, la nuova puntata sempre su Radio Giroma 105.7 in streaming giroma.org, che ha fatto 25 anni, ricordiamo. Auguri a tutti.